Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, ben ritrovati da Giampaolo Musumeci a questo appuntamento del weekend di Nessun luogo è lontano in versione extra large, nel quale vi riproponiamo le migliori interviste, i migliori momenti della settimana di Nessun luogo è lontano. Lunedì abbiamo inaugurato la nostra seconda settimana di programmazione portandovi direttamente nel cuore della striscia di Gaza. Abbiamo infatti sentito Cosimo Lequaglia, chirurgo di Medici Senza Frontiere all'ospedale Al-Shifa di Gaza, al quale abbiamo chiesto di descriverci la situazione della striscia e le condizioni dell'ospedale in cui lavora. Ascoltiamo. Ma è l'ospedale più grosso, più grande, più importante della striscia. Ha quasi 500 posti letto, ci sono un po' tutte le divisioni, persino l'oncologia, la radioterapia, quindi è un ospedale abbastanza completo. Vi sono 6 sale operatorie in un blocco e 2 sale operatorie in un altro, quindi tutto sommato è abbastanza avanzato come situazione. Per quello che riguarda la parte di emergenza in questo momento, che è quella che è più importante, c'è un pronto soccorso molto attivo con una quindicina di postazioni, 3 sale che vanno dall'emergenza a rianimazione immediata per l'intubazione immediata dell'eventuale paziente che arriva, c'è una grossa terapia intensiva con 10 posti letto, c'è una unità di terapia intensiva per gli ustionati con 3 posti letto, c'è una cardiochirurgia quindi con la sua terapia intensiva, però tutto questo adesso è tra virgolette in mano al Dipartimento di Emergenza, proprio per questa situazione catastrofica diciamoci adesso. Sì. Quanto è difficile lavorare per voi? Di cosa avete bisogno? Quanto la struttura che vi ospita in questo momento è dotata sufficientemente di medicine e attrezzature? Ma i farmaci diciamo che non mancano. Quello che manca sono delle cose che tra virgolette loro anche avevano poco, nel senso che purtroppo per quanto sia un ospedale fornito dal punto di vista delle specialistiche, quindi c'è la chirurgia toracica, c'è la cardiochirurgia, la neurochirurgia e via di seguito, però lo strumentario è antiquato, 10-15 anni indietro, anche i fili di sutura, suturatrici meccaniche, emostatici, cioè tutto quello che noi abbiamo classicamente a casa in Europa, in Italia, qui manca. I portaggi sono quelli anteguerra e via di seguito, diciamo ci si arrangia, e tenuto conto che è anche un tipo di chirurgia molto particolare, perché quella del trauma e di guerra in questo caso è diversa della chirurgia tra virgolette più fine, però se si hanno anche le attrezzature giuste tutto è meglio, tant'è vero che io le anticipo, oggi è partito un carico di scatoloni grossi, uno già in viaggio, e più questi altri 7 da dove io lavoro, e faccio una specie di colletta, e quindi stanno arrivando un pacco con suturatrici meccaniche, un altro con emostatici e sigillanti, con fili, con vario strumentario, in modo tale da dare anche un pizzico di respiro, perché qui i tubi di drenaggio, insomma di respiro, comincia a mancare qualche cosa, non i farmaci, però tutto il resto che serve invece in sala operatoria sì. Dal punto di vista dell'approvvigionamento della corrente elettrica, come funziona? Quanto va a inficiare il vostro lavoro? Diciamo che non inficia in niente, perché ci sono 2 gruppi elettrogeni nell'ospedale, uno più grosso dell'altro, e funzionano regolarmente. Se va via la corrente, va via per un secondo, veramente un minuto scarso, perché parte il gruppo elettrogeno. Tenga conto che questo è il minimo assistenziale per l'attività di un ospedale, in particolare per le sale operatorie devono avere sempre le terapie intensive, insomma tutte queste situazioni negli ospedali devono avere il loro gruppo elettrogeno autonomo, e quindi è normale. C'è una cosa, ecco, le dico su questa scienza, l'altro ieri notte all'ennesimo intervento, tra un intervento e l'altro noi ci dobbiamo lavare le mani e via di seguito, a un certo punto finita l'acqua, semplicemente perché purtroppo non era stata ricaricata, perché logicamente non avendo più l'acqua corrente, perché è stata tagliata anche quella come l'energia elettrica per la centrale, il rifornimento è con autobus e con cisterne. Facevo alle 2 di notte, non ero riuscito a ricaricare visto l'enorme consumo, perché prende anche conto questo, l'ospedale è diventato anche un luogo per i rifugiati, per i poveri profughi, ce ne saranno 2000, ma buttati lì sul prato, buttati in mezzo agli alberi, nei sottoscala, nei corridoi. È una cosa veramente impressionante. Ecco, lei, fra l'altro, dottore, ha anticipato in qualche modo la mia domanda, le avrei chiesto appunto se nel vostro ospedale, come in tanti altri luoghi, mettiamo le virgolette, protetti, appunto fosse stata una ricerca appunto di uno scudo in qualche modo, e in questo mi ha risposto. E però mi dà il desto per un'altra domanda che non è strettamente clinica e forse mi perdonerà, però è anche questo forse testare il polso della situazione drammatica in cui lei sta operando. Che idea si è fatta dell'umore della popolazione di Gaza? Come arrivano portando i feriti? Come portano via i feriti che sono guariti? C'è speranza? C'è dolore? Un dolore che annienta ogni altra emozione o cos'altro? Ci sono tre situazioni particolari. La situazione, diciamo, come dire, di chi è della nostra tra virgolette casta, cioè il medico, l'avvocato, diciamo il professionista, tra virgolette, il giornalista che transita, che ha la famiglia a casa più o meno protetta, perché vanno dai nonni, vanno dal padre, dal fratello, però non si sa dove sono andati a finire, perché purtroppo per stare in sicurezza vagolano nella striscia. Questa già è una situazione veramente drammatica, quindi ci si sente per telefono, questo ad un certo livello, diciamo, di ceto sociale. Il ceto medio-basso purtroppo è veramente in giro, sparpagliato. L'altro ieri, 3 giorni fa, avete visto, penso tutti in televisione, questa fiumara di persone che da sud viene verso Gaza City. La stessa cosa è successo da nord verso Gaza City, perché sembra l'unico posto protetto ancora o tranquillo apparentemente. La cosa invece che colpisce tanto sono i bambini, questi bambini che quando arrivano bruciati, feriti, con questi arti esposti, con fratture, di tutto, li posso assicurare veramente di tutto, sono lì buttati nel lettino attoniti, senza piangere, e questa è la cosa principale, non piangono perché non si aspettano questa situazione, non si aspettano questa cosa incredibile. Tanti di questi bambini, anche giovani, 20 anni, non hanno più la famiglia. L'altra notte abbiamo operato una famiglia intera, 8 persone, erano combinati uno peggio dell'altro. Ora lì prima c'erano 2 bambini piccoli sotto i 7 anni, è veramente, cioè, sono famiglie distrutte. Oltretutto le immagini, giovane, amputato ad una gamba o amputato a tutte e due le gambe. Che cosa ne è della vita di questa persona? Primo, per il lavoro; secondo, dal punto di vista sociale; terzo, se non ha neanche la famiglia. Immagini, cioè, questa generazione, di questa popolazione, come va a finire, come potrà, che cosa può ricostruire? Grazie. L'umore, definisco l'umore però di tutti, è di un'estrema, potremmo dirla all'occidentale, signorilità. E devo dire, io ho visto pochissime scene di pianto, chiamiamolo panico, la mamma che si strappa i capelli. Vi assicuro che ne ho viste pochissime. Cioè c'è una compostezza incredibile, o perché purtroppo hanno fatto il callo, perché qui le guerre sono 3 in pochi anni, sì, o perché non so, sono non rassegnati, però da un lato dicono: ma speriamo che finisce. Cioè c'è questa, diciamo, assurdità nella situazione, perché loro stessi dicono: ma ci hanno levato l'energia elettrica, non possiamo più bere, il cibo è cominciato a scarseggiare, le colture della parte nord sono tutte ormai espropriate, diciamo, quindi dicono c'erano tutti verdure, frutta, cioè, quella situazione